L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Benvenuti a tutti, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao Federico, una Ciao. Nuova puntata di Darwin sta per iniziare. Ciao Chiara, allora davanti a me ho un libro con una bella copertina giallona forte che si intitola Material Matters. Ormai questo qualcosa che matters si sta diffondendo. Qui si vuol dire che i materiali e la materia sono molto importanti, contano. Il libro è di Thomas Rau e di Sabine Oberhuber, credo di averlo pronunciato giusto, edito da Edizioni Ambiente. L'importanza della materia, un'alternativa al sovrasfruttamento. E parleremo di una roba estremamente originale, di una cosa originale che è il passaporto dei materiali, ovvero una dichiarazione universale di diritti dei materiali. Mi sembra giusto, perché insomma ce li abbiamo tutti, perché i materiali non dovrebbero averli, che sono così importanti. E lo facciamo commentandolo con due ospiti. Marco Caffi, che è già in collegamento, che è direttore del Green Building Council. Intanto benvenuto a Darwin. Grazie e grazie dell'invito. È con noi anche il direttore editoriale di Edizioni Ambiente, Marco Moro. Benvenuto Marco. Grazie, grazie, un saluto a tutti. Allora, cominciamo con Caffi. L'idea, che può sembrare strana, ma però ormai sta marciando, no, Caffi, è quella di, per esempio, per avere un esempio forte, di riuscire a digitalizzare tutti i materiali che ci sono dentro un edificio. Il che vorrebbe dire avere, sì, proprio una radiografia che possiamo anche chiamare passaporto, di tutto quello che può essere estratto da un edificio, per esempio quando lo si butta giù. No? E possiamo pensare nelle città grandi europee non solo a tutti quegli edifici industriali piccoli che mano a mano hanno finito la loro funzione, però vorremmo vedere in particolare un aspetto, e cioè quello che si costruisce è il 5% di quello che abbiamo intorno. Quest'idea della dichiarazione universale dei diritti dei materiali potrebbe andare anche sugli edifici esistenti. Come si fa? È possibile? Beh, questo è assolutamente possibile, e l'utilità di questa indagine di come è costituito un edificio, soprattutto esistente, perché l'ho appena detto, il parco edilizio del nostro continente è costituito di edifici esistenti. Concordo sulla grande utilità di andare a indagare quella che è la composizione degli edifici e a caratterizzarli, perché gli edifici sono di per sé una banca di materiali riutilizzabili, e in particolar modo gli edifici esistenti, che costituiscono, come lei ha detto, il 95 e più per cento del patrimonio edilizio. Si costruisce anche meno del 5% l'anno in termini di nuovi edifici. Quindi in questi edifici esistenti ci sono tantissimi materiali che, anche nel ricostruire edifici nuovi o nel modificare edifici esistenti, potrebbero essere utilizzati. Ci fa qualche esempio di questi materiali, appunto, che sono già presenti e che si potrebbero riutilizzare, possono avere nuova vita? In che modo si possono recuperare? Assolutamente. Tra l'altro, proprio la nazione dove viene Thomas Rau, l'Olanda, ci insegna tante cose, ci sono esempi concreti. In alcuni, per un edificio, ad esempio, di un grosso investitore, è stata fatta questa scelta: andare a ricercare tutto ciò che veniva smantellato da edifici vicini in via di demolizione, cercando di capire come riutilizzarli nel proprio edificio. Questo grande investitore ha realizzato un edificio, ad esempio, dove le pareti mobili delle sale riunioni di questo nuovo edificio altro non erano che parte delle facciate vetrate smontate da un edificio a pochi chilometri di distanza. Cioè, lei dice che gli edifici esistenti sono anche edifici nei quali ci entrano in gioco delle trasformazioni, no? Per esempio tutti gli open space, che vuol dire tirare giù muri che erano invece separatori. Allora lei dice: in questo caso si può cannibalizzare positivamente degli altri edifici che magari vengono buttati giù e utilizzarli nella trasformazione del nuovo. Esattamente. Ovviamente per fare questo serve però conoscere in modo approfondito quell'edificio, quel componente esistente, di cosa è fatto, quali sono le caratteristiche per poterlo utilizzare in modo adeguato e in modo sicuro. E da qui la digitalizzazione, a cui accennavo all'inizio, assume un ruolo fondamentale, perché digitalizzando gli edifici, sia quelli di nuova costruzione con i nuovi processi di progettazione BIM, significa costruire degli archivi in cui conosciamo tutto dell'edificio nuovo e quindi in futuro sapremo come usarlo nel momento in cui lo decostruiamo. Cioè tutti gli elementi che compongono quell'edificio sono tracciati digitalmente, così insomma, per semplificare un po' così. Esattamente, e quell'edificio di cui facevo l'esempio, citavo, hanno proprio fatto questo. E tutto l'edificio, tutti i componenti sono tracciati, sia che fossero componenti o materiali nuovi o di recupero. Ma si può arrivare fino alle serrature, alle maniglie? Esattamente, quello che si può fare è, ovviamente molti progetti sono in corso per capire quali sono le tecniche di digitalizzazione più efficaci per studiare i materiali e catalogarli e fare in modo che l'edificio diventi un deposito che ha all'interno materiale e componenti catalogati per il loro riuso. E questo permette di arrivare, in funzione della capacità, a caratterizzare anche non solo la serratura come materiale metallico che può entrare in un ciclo di recupero del metallo, ma, avendole citato la serratura, eventualmente la serratura come componente che ha già una funzione. E quindi se io riesco a caratterizzarla così e a renderla disponibile in un sistema informatico che la rende chiara e diffusa come elemento conosciuto ai vari progettisti, ai vari costruttori, quell'elemento può di nuovo tornare ad essere direttamente una serratura all'interno di un altro edificio. Strada ce n'è molta da fare sicuramente, ma le prime esperienze ci sono. E funzionano. E funzionano, anche perché gli investitori che stanno facendo questo sono investitori talvolta anche legati strettamente al mondo della finanza, che stanno facendo sperimentazione di come questi meccanismi nuovi di approccio e strategia di progettazione possano creare un valore sia dal punto di vista ambientale, ma anche proprio dal punto di vista economico, quindi proprio dal punto di vista dell'economia circolare con impatto ambientale ma anche economico e finanziario. Solo per un chiarimento, volevo chiedere a Marco Moro, appunto facendo riferimento proprio al libro e agli architetti che descrivono questo passaporto, insomma, mettiamolo tra virgolette, in cui possiamo dire che ogni materiale, quindi ogni oggetto che compone il palazzo, l'edificio, e poi vedremo anche sistemi complessi come una città, hanno un codice, diciamo una tracciabilità rappresentativa, per cui rappresenta il passaporto di quel materiale, di quella merce. È così che stanno un po' proponendo di tracciare i materiali, Moro? Sì, sì, se vogliamo, questa idea del passaporto è anche una bella idea di comunicazione per mettere in luce l'esistenza di un problema, che è appunto quello del riutilizzo dei materiali edili, che oggi costituiscono una grossa parte di quello che va tuttora in discarica. E quindi c'è soprattutto un'idea di comunicazione, l'idea di chiamarlo passaporto è molto efficace, però effettivamente il suo funzionamento è proprio quello. L'idea è: diamo un'identità ai materiali, perché quello che è privo di identità finirà per essere rifiuto. Quindi se rendiamo riconoscibile ogni materiale, ogni componente che abbiamo utilizzato in un manufatto edilizio, siamo in grado di riutilizzarlo perché sappiamo cos'è. Ecco, e giustamente parlando adesso con Caffi, dicevamo un palazzo è certamente un sistema in cui dentro abbiamo un'infinità di materiali, ma pensiamolo ancora più allargato: una città è addirittura una miniera di questi materiali. Possiamo pensarla davvero in maniera esponenziale? Sì, sì, sì, certamente, certamente. Anche un sistema complesso come la città è a sua volta una miniera di materiali, e ancora di materiali ancora più diversi. Se ci pensiamo, una città tutto sommato, vista nel suo insieme, è un cantiere continuo, è una realtà, è un organismo in continua trasformazione, e quindi se pensiamo non solo alle infrastrutture, le strade, gli arredi urbani, le attrezzature per l'illuminazione pubblica, sono tutta una quantità di materiali che effettivamente possono essere catalogati. Gli può essere attribuita un'identità materiale che li renda potenzialmente riutilizzabili. Ma per esempio sottoterra c'è un sacco di rame, di cavi che non si usano più, sono stati sostituiti e nessuno è andato a tirarli fuori. Esattamente, esattamente. E anche a questo aspetto, cablaggi e condutture che stanno di solito sotto i nostri marciapiedi e che vengono spesso riaperti per aggiornare, sostituire, implementare funzioni e servizi diversi, è chiaro che anche quella diventa una banca, una potenziale banca di materiali. Solo se fossero tracciati riusciremmo a sapere che ci sono, certo, giustamente. Certo, questo è se vogliamo, questa è un'estensione dell'idea dell'Internet of Things, l'internet delle cose, un'applicazione di intelligenza artificiale che estendiamo. Adesso siamo abituati a pensarla al mondo dei device e degli elettrodomestici, però se la estendiamo ai materiali capiamo che c'è un potenziale enorme in questo. Ma così, soprattutto grazie alla rete che può contenere miliardi di informazioni, verrebbe a crearsi un immenso mercato dell'usato. Sì. Si riuscirebbe a creare, e ci sono già esperienze in questo senso, e naturalmente finiamo di nuovo in Olanda per parlarne, perché effettivamente lì delle sperimentazioni ci sono state fatte da questo punto di vista, e si creerebbe un grande mercato dell'usato in edilizia, che non è il manufatto in sé, ma sono tutti i materiali e i componenti che sono stati utilizzati per realizzarlo. E Moro, nel libro ovviamente si parla di materiali, appunto l'abbiamo detto, materiali edili, materiali da costruzione, quindi diciamo che hanno dei volumi molto significativi, ma potremmo ad esempio ipotizzarlo anche per altri materiali? Forse questo tipo di tracciabilità per l'agroalimentare è già in corso, cioè dove si produce e dove va a finire, ma possiamo ad esempio pensare anche per le fibre tessili, per altre materie prime che indubbiamente hanno un grande valore anche se trasformate. Sì, senza dubbio, tant'è che il libro, anche se Rau effettivamente parte dalla sua esperienza come architetto e da quello che ha sperimentato nel riutilizzare materiali usati, ma in realtà il libro affronta il tema materiali in generale, quindi effettivamente questo approccio, questo tema dell'identità dei materiali si può estendere a qualsiasi tipo di materiale utilizzato in qualsiasi tipo di settore, appunto dai device elettronici. Non c'è un motivo per pensarlo unicamente applicato all'edilizia. All'edilizia, certo. Bene, noi vi ringraziamo. Ricordo il titolo: Material Matters, edizioni Ambiente, scritto da Thomas Rau e Sabine Oberhuber. Grazie Marco Caffi, grazie Marco Moro, buon lavoro davvero. Grazie a voi. Grazie a voi dell'ospitalità, un saluto a tutti. Adesso Federico e ascoltatori vi porto all'interno dell'Auditorium di Milano per assistere allo spettacolo Materia in Fuga, viaggio nella musica subatomica, in cui dialogano Ruben Gijs, il direttore dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, la cosiddetta Verdi, e l'astrofisico Simone Iovenitti, a suon di musica ovviamente. Ottimo, certo, mi viene in mente a questo punto che tra la materia composta di atomi e la musica che è composta di note ci sono grandi analogie. Ed è proprio qui il punto. Allora, sono andata ad assistere allo spettacolo e ho pensato di riproporvelo perché mi è sembrato davvero molto piacevole e ben costruito, e ho scoperto, pensa, che all'interno della fuga di Bach c'è un soggetto che è un pezzettino, insomma, di musica eseguita ad esempio dai violini, e poi c'è un controsoggetto eseguito ad esempio dalle viole, dai violoncelli, che esprime una versione così complementare, e poi c'è una risposta che nient'altro è che il soggetto però replicato su diverse altezze. Vabbè, è un po' difficile da spiegare, però ascoltate. Buonasera, benvenuto al nostro ospite, è Simone Iovenitti, un importante astrofisico milanese, nonché giovane, e ne siamo contenti. Oggi vogliamo andare a capire come si costruisce la materia, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista musicale. Ho pensato di iniziare questa chiacchierata scientifica con una domanda. Qual è la singola frase che contiene la più importante conoscenza scientifica che possediamo? Questa frase venne posta il secolo scorso da un giornalista a questo signore, un certo Richard Feynman. Quando ascoltò la domanda, Feynman non ci pensò un secondo. Non aveva dubbi, rispose subito: tutto è fatto di atomi. Questo, in realtà, è la prima analogia che sussiste tra la materia e la musica. In effetti, se ci pensate, la musica stessa non è tutta fatta di note, così come la materia è fatta di atomi. Nel caso del pianoforte è palese l'esempio. 88 sono i tasti, quelli sono, e basta. La musica che ci potete creare è infinita. Joseph Thomson fu il primo a dire: perché l'atomo deve essere indivisibile? Secondo me gli elettroni vengono dall'interno dell'atomo. E propose un modello cosiddetto a panettone. Il modello atomico di Thomson prevede gli elettroni immersi nella materia atomica, così come i canditi sono immersi nella pasta del panettone, ok? Gli elettroni hanno carica negativa ed evidentemente la matrice allora atomica deve avere carica positiva, perché si sapeva che l'atomo è globalmente neutro. Questo modello è estremamente importante per la storia della fisica, perché fu la prima volta in cui ci si pose il problema, ci si scontrò con la realtà che l'atomo in realtà non è vero che è indivisibile. Le analogie tra la struttura della materia e la struttura della fuga si innestano a questo livello qua. Ma a che livello siamo? Insomma, se avete seguito, c'è la materia che è fatta di atomi e gli atomi, ok, hanno degli elettroni che girano intorno, anche se non è correttissimo, e c'è un nucleo invece che sta al centro, che è molto più piccolo. Quanto più piccolo? Faccio un'altra analogia milanese, diciamo. La nostra cattedrale, il Duomo di Milano, immaginate che lei sia il nucleo atomico. Se il Duomo è il nucleo, l'atomo è il pianeta Terra, l'intero globo. Questa è la differenza di dimensione che c'è tra il nucleo e l'atomo. Il nucleo è circa 100.000 volte più piccolo ancora dell'atomo. E noi vogliamo concentrarci proprio su di lui, sul nucleo, la parte centrale dell'atomo. Il nucleo è fatto da due tipi di particelle, i protoni e i neutroni. Queste due particelle hanno un raggio equivalente più o meno uguale, hanno una massa più o meno uguale e hanno delle proprietà molto simili tra di loro. Ad esempio, sono entrambi adroni, ovvero particelle che risentono dell'interazione forte. Sono entrambi barioni, ovvero particelle pesanti. Sono entrambi fermioni e potrei insomma andare avanti. Avete capito che protoni e neutroni sono molto simili tra di loro, ma c'è una differenza saliente caratterizzante: la carica elettrica. Il protone ha carica positiva, il neutrone la carica non ce l'ha. Verrebbe da dire che sono una la risposta dell'altra. E questo termine scoprirete tra poco che non lo sto usando a caso. Ogni atomo è identificato univocamente dal suo numero di protoni. Se un atomo ha 29 protoni, è rame. Se ne aggiungete uno e arriva a 30, allora diventa zinco. D'altra parte, però, voi sapete che non si può certo ignorare la nuvola elettronica, l'insieme degli elettroni. Se il protone è il soggetto, gli elettroni sono il controsoggetto, legati ma opposti. Opposti per quale motivo? La carica. È facile. Il protone è carica positiva, gli elettroni carica negativa. Ma c'è di più. Ogni atomo è caratterizzato dal suo numero di protoni. E quel numero è pari al numero degli elettroni, perché globalmente l'atomo è neutro, come abbiamo detto. Ma il numero degli elettroni può variare. Non è stabile, non è fisso come il numero dei protoni. Quindi il controsoggetto presenta delle variazioni rispetto al soggetto, che è una frase che risentirete tra poco. Gli elettroni sono quelle particelle che permettono agli atomi di interagire. Il soggetto, il protone, non farebbe nulla con un altro atomo se non ci fosse la nuvola elettronica attorno. Per tutti questi motivi, insomma, ed è con queste idee in mente, insomma, che io cedo la parola al direttore maestro Ruben Giais. Grazie. Simone ha voluto presentarci un poco la struttura della fuga. Una stessa melodia viene ripetuta. Nella fuga, diciamo nella forma più classica, in quella che ascolteremo adesso, questa prima melodia viene chiamata soggetto e viene ripetuta più volte dalle voci, per cui ogni voce ripresenta la stessa melodia. Nella fuga questo è ben spiegato dal rapporto tra il soggetto, come ci spiegava prima Simone, il protone del nostro nucleo, e il controsoggetto. Ora vi faccio ascoltare, dividendo, suddividendo i vari esempi. Prendiamo la fuga, grazie. Questo è il primo soggetto. Ascoltiamo le prime due battute. La testa del tema. Però questo non è finito qui, il soggetto. Vediamo come Bach lo sviluppa. Prima elaborazione. Prima erano note più lunghe, poi inizia a accelerare perché sempre più arricchisce di abbellimenti. Adesso ascoltate l'ultima battuta del tema, come ancora di più viene abbellito, in qualche maniera si sfalda la struttura atomica del nostro soggetto per arrivare piano piano a offrire l'ingresso alla seconda voce, cioè la risposta. E quando entra la risposta, il soggetto piano piano si trasforma nel controsoggetto, cioè in un controcanto che accompagna la riproposizione del soggetto in un'altra voce. Ascoltiamo tutto il soggetto, grazie. Ancora più abbellito. Ascoltiamoli insieme adesso. Il primo tema in sol minore, la risposta in re, e quando loro ci cantano la risposta, i primi violini suonano il controsoggetto, il famoso secondo elemento di cui ci ha parlato Simone all'interno dell'atomo. Avete sentito come iniziano a sdoppiarsi le voci? Il nostro cervello inizia a seguire vari percorsi. Questa è una fuga cosiddetta quattro voci, cioè i violini primi, i violini secondi, le viole, i violoncelli bassi, ciascuno in momenti diversi, o in sol o in re, ci presentano questo. Ascoltiamo tutta la fuga. Vi invito a prendere subito confidenza almeno con le quattro voci, molto facile: violini primi, primo ingresso, la risposta ai violini secondi, viole, soggetto, la risposta, violoncelli contrabbassi. Pian piano le transizioni, poi arriveremo al famoso si bemolle maggiore che ci dà luce e poi torniamo nel serioso sol minore. Grazie. Thank you. Senti Chiara, davvero molto interessante, poco scontato e una gran bella musica. Sì, molto molto piacevole, e io ricordo che ci sono altre occasioni, ci sono altri appuntamenti dedicati alla scienza e alla musica. Il 27 e il 28 ottobre c'è Cervello Musicale, quindi un po' il rapporto tra le neuroscienze e la musica, e invece a fine novembre 24 e 25 gli amanti del cosmo troveranno qualcosa per le loro orecchie, insomma. Per tutte le info www.laverdi.org. Davvero una bella iniziativa. E per questa puntata, quello che dovevamo raccontarvi ve l'abbiamo raccontato. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo presto con una nuova puntata di Darwin. Ciao Federico. Ciao Chiara. Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.